Unilibera presenta Lucciole nelle tenebre. Benvenuti a un'altra puntata di Lucciole nelle tenebre, qui in studio Stefano e Benedetta, ciao a tutti. Oggi cominceremo il ciclo di puntate dedicato a Contromafie. Che cos'è Contromafie, Benedetta? Allora, che cos'è stato, direi, Contromafie? Sì, è vero. Contromafia è stato un evento organizzato da Libera a Roma il weekend scorso, quindi stiamo parlando del 24, 25 e 26 ottobre. Era un incontro di principalmente formazione che ha dato occasione ai partecipanti di studiare il fenomeno mafioso, per l'appunto, con la grande partecipazione di 2000 relatori e una serie di esponenti sia a livello istituzionale ma anche internazionale, e gente che appunto vive il fenomeno nel loro quotidiano e nella loro professione. È stato un evento che ci ha permesso appunto di conoscere questo fenomeno e di studiarlo, perché di base, almeno quello che io sono stata e anche Stefano, siamo tornati con l'idea che per risolvere qualcosa la devi capire e la devi conoscere. Quindi è stato un evento che ci ha permesso non di capirlo fino in fondo, ma quantomeno di avvicinarci a una reale conoscenza. Sì, e poi ha anche dettato, come dire, una svolta all'interno dell'associazione, ma ne parleremo poi. Come abbiamo già detto, comunque sia, all'interno di questo Contromafie ci sono state una serie di ospiti, relatori, tra cui Rodotà, Boldrini e altre persone. Qual è stato il tuo preferito, Lisa? Oddio, dire qual è stato il mio preferito è molto molto difficile, perché oltre ad essere molteplici, gli ospiti sono stati molto eterogenei e variegati. Mi ha colpito particolarmente la figura di, scusatemi se sbaglio a leggere il nome, di Nardi Suxo Ituri, che è il ministro della trasparenza e anticorruzione in Bolivia. È un ministero, questa signora è a capo di tal ministero da 9 anni, e hanno creato questo ministero proprio per risolvere quel fenomeno di corruzione che è tipicamente anche nostro, e tant'è che ha portato alla carcerazione di tanti veramente ministri. Ed è stato un personaggio molto molto forte durante questo evento, durante questo giorno, che ha appunto parlato con una chiarezza e con una determinazione tale da veramente farci capire quanto siano da primis le istituzioni e tutta la società civile a dover combattere la corruzione. Hanno, aiutami Stefano, perché ha detto talmente tante cose, non so se abbiamo poi modo di mandare anche il discorso. Ha parlato anche della questione delle, tra virgolette, quote rosa, che da loro non esistono, in quanto è fondamentalmente vero. Lei è già un ministro donna che si occupa di una cosa molto importante come la cosa di corruzione, ma tipo circa la metà, se non ricordo male, delle donne, sì, sono un sacco, sì, di ministri appunto presidiati da soggetti femminili. I soggetti femminili dicono che appunto loro hanno bisogno di una quota rosa. Sicuramente è una questione su cui noi dobbiamo fare degli enormi passi avanti. Esatto. Pur avendo un'economia comunque sia, tra virgolette, più sostenibile della loro, comunque sia fa molta specie, come noi siamo molto indietro rispetto a questo genere di cose. E ora mi viene in mente anche una cosa che mi ha colpito particolarmente, il fatto che quello che forse ha cercato di fare Libera con la campagna Riparte il Futuro, cioè obbligare le persone che vogliano assumere incarichi istituzionali o comunque di pubblica amministrazione a rendere conto del proprio patrimonio, del loro guadagno e di tutto ciò che possa essere sintomo di una corruzione, di un illecito. A me invece ha fatto molto una molto buona impressione il discorso di Laura Boldrini, perché Laura Boldrini è stata, ha difeso molto bene il ruolo delle istituzioni all'interno di questo convegno durato 3 giorni, perché comunque sia lei è stata per molti anni portavoce dell'Alto Commissariato per i Rifugiati all'interno dell'ONU, E comunque sia, ha fatto vedere all'interno del suo discorso come in realtà sia ancora molto sensibile a questo genere di tematiche. È stato un discorso molto lungo, cioè è stato doveva essere un saluto, ma è stato un salutone, quindi diciamo che è stata forse l'unica istituzione presente che ha fatto un discorso da istituzione con tutti i vincoli che un'istituzione possa comportare. E che facciamo? Andiamo un pezzo? Ma sì. Cosa hai in mente tu? Allora, è un gruppo che ho conosciuto molto casualmente, ma che è una canzone che mi mette allegria e spero che possa trasmetterla anche a voi. Il gruppo si chiama Testa in Tasca e la canzone si chiama, scusate la ripetizione, La musica mi piace tanto tanto tanto, come penso a tutti i nostri ascoltatori. Dai! Io proprio non capisco perché mi fai questa tua strana domanda. Sembra proprio non mi conoscessi più dopo 3 anni che siamo chiusi in una stanza. Ma sprofondo in solitudine se ripenso a questa tua strana domanda. Non senti che il mio corpo va in libidine, che si tratti di Mozart o la bamba. E quindi sì, a me la musica mi piace tanto. Sono contento quando la suono o quando l'ascolto per sbaglio. Anche se una situazione irritante, la vivo bene serenamente. Un suono mi accompagna lentamente. Bentornati in studio, spero che la canzone sia stata di vostro gradimento e vi abbia fatto ballare un pochino. Qui abbiamo ballato, almeno io nel mio cervello. Sacco, veramente un sacco. E torniamo a Contromafia. Contromafia è stato svolto su più giorni e il secondo giorno, il giorno di sabato, ha visto una certa discrezionalità nel seguire i seminari. Erano 30, se non sbaglio, sì, i seminari sparsi per tutta la capitale e ognuno sceglieva quello che gradiva maggiormente. Parlo del mio e poi Stefano parlerà del suo. Io ho scelto un po' perché su giurisprudenza il tema della dignità della pena e delle carceri. Hanno parlato una serie di esponenti, da magistrati a volontariati, ed è molto difficile entrare nello specifico, quindi cercherò di parlare soltanto tramite un breve riassunto della questione. Quello che è emerso in quasi 6-7 ore di seminario è che il carcere sia caratterizzato da forti, fortissimi paradossi e soprattutto che il carcere sia diventato un business e dove comunque non ci sia un organo preposto al controllo e al buon funzionamento, che sia diventato un escamotage politico, quindi non c'è una reale intenzione di migliorare la qualità della vita, perché riflette forse quella tolleranza zero, quel senso di dire loro sono i cattivi, per cui se non hanno una vita dignitosa all'interno del carcere chi se ne frega. In realtà il criterio per misurare una reale società considerabile civile è il carcere. Se non è civile il carcere, signori, non è civile neanche la società in cui viviamo. E potrei entrare nello specifico, potrei dirvi che a Brescia le persone carcerari vivono in piedi un tot di ore, perché non c'è spazio sufficiente perché possono simultaneamente stare in piedi. Vi posso dire che tutte le lesioni dei diritti vengono sopperite con un pagamento di 8 ore al giorno. Ci sono un sacco di esempi concreti che non starò qui a menzionare perché richiederebbe veramente una puntata a sé stante. Quello che ci tengo veramente a sottolineare brevemente, prima insomma di lasciar parlare Stefano del suo di seminario, è che il carcere è una fonte di criminalità assurda, è un po', e se non si risolve al carcere non si risolve alla radice qualsiasi fenomeno, perché è veramente una possibilità, quella del carcere, di incontrare gente del mestiere, di creare criminali che non sarebbero, e soprattutto che nelle carceri i veri criminali non ci sono, per cui lasciare nelle carceri e soprattutto in quelle condizioni poco dignitose è un espediente per avvicinare le persone alla criminalità. Quindi si è concluso il seminario con un forte invito a risolvere il problema, per risolvere i problemi più grandi che sono fuori alle carceri, ma che partono dalle carceri. Beh, comunque sia molto interessante. E il mio seminario è durato molto di meno, circa un terzo del tempo, 3 ore, però era un seminario comunque sia molto interessante perché era relativo al mercato internazionale delle droghe, che uno pensa di sapere molte cose, ma in realtà potresti scoprire di sapere molto meno di quello che tu creda. Per esempio, il nostro era un seminario internazionale, infatti oltre a persone, relatori italiani come Francesco Maestro, che è il presidente del Tribunale di Sorveglianza dell'Emilia Romagna, e Salvatore Velti dell'Agenzia delle Dogane, ci sono stati anche dei relatori esteri, ossia Franz Trautmann del Trimbos Institute di Utrecht, che ha fatto un discorso molto interessante su come il proibizionismo in realtà ha portato a un aumento degli introiti della criminalità organizzata nell'ambito delle sostanze stupefacenti. E infatti durante tutto questo convegno è stata fatta una panoramica globale sui mercati delle droghe, da dove provengono, da chi sono ingestiti, e si è venuto a delineare un profilo in cui l''ndrangheta fondamentalmente gestisce la maggior parte dei beni della tratta delle droghe che provengono in Europa, passando sia per l'Africa che per l'Asia, che per l'Est Europa, che per il Messico. E a proposito di Messico, c'è stato alla fine di questo seminario un intervento di Stefano Fumarulo, referente del Messico per Libera International, che ci ha spiegato la situazione all'interno del Messico. Il Messico, anche se molte persone non ne parlano, i giornali non ne parlano, è una realtà molto, molto, molto influenzata dai cartelli delle droghe. Uno su tutti, Los Zetas, che hanno anche un canale YouTube, e che fondamentalmente fanno sparire le persone. Infatti il Messico ha un problema di desaparecidos molto molto grande, infatti tipo al giorno scompaiono circa 70 persone in Messico, e scompaiono perché sono persone che si oppongono alla corruzione che è stata portata dai cartelli delle droghe all'interno del Messico. E quindi comunque sia è un problema reale, perché comunque sia nella nostra vita di tutti i giorni chi consuma della droga, delle sostanze stupefacenti che non sono all'interno del mercato, finanzia questo mondo qui. E allora appunto alla fine si è concluso tutto questa conferenza con una riflessione appunto su quanto le nostre azioni, i nostri acquisti possano influenzare il mondo che ci circonda. Ma direi che è giunta l'ora di fare un'altra pausa prima della nostra fantastica rubrica Buffie. Tutti questi discorsi seri che magari in questo orario sdrammatizziamo. E lancio una canzone dedicata a un mio incidente che ho fatto poco tempo fa. È sopravvissuto, se no non sarebbe più a chiacchierare e con noi. Lancio degli Skiantos Frontale. Dai, un po' di Bologna bene. Ho un'idea geniale, io mi faccio un frontale. Giù dalle scale, evitando il cortile, l'esistenza è banale, ma un banale reale, è fatica a pensare, preferisco dormire. Io mi faccio un frontale, io mi faccio un frontale, io mi faccio un frontale, io mi faccio un frontale. Sta benzina, una riserva in cantina, posso correre ancora, forse fino a stasera, posso andare più forte, posso dare più gas, posso andare a cagare, scaricare lo stress. Io mi faccio un frontale, io mi faccio un frontale, io mi faccio un frontale. Faccio un frontale. È la solita strada di primo mattino, col sole divido un noioso destino. Io non sono curioso, non il tipo morboso, io non ho aspettative né passioni creative. Io mi faccio frontale, io mi faccio frontale, io mi faccio frontale, io mi faccio frontale. Sì, mi faccio frontale. Eccoci di nuovo in studio, siamo cambiate, io sono Carolina. Io sono Giuliana. E oggi durante la nostra rubrica Buffie abbiamo deciso di parlarvi di una rassegna cinematografica che si terrà al Cinema Lumière dal 5 al 9 novembre in Viazzo Gardino 65. La rassegna in questione ha come protagonista Xi Jin, un gigante del cinema cinese a livello mondiale. Proveniente da una formazione sia teatrale che cinematografica, Xi Jin si fa notare per la prima volta nel 1957 con Woman Basketball Player No. 5, che udite udite fu il primo film cinese a colori sul mondo dello sport. Da allora diventerà uno dei più popolari e influenti registi cinesi nel periodo che va dagli anni 50 agli anni 90, al punto che negli studi accademici di vari paesi occidentali viene inserita la sua poetica cinematografica. È vero, Giuliana? Assolutamente sì, caro. Poetica che viene definita con il nome di modello Xi Jin. Gli elementi chiave di questo modello sono l'esaltazione dei valori confuciani e la scelta di vicende melodrammatiche e di temi popolari, che sono poi proprio le caratteristiche che gli permettono di ricevere la stima sia della gente che della critica, portandolo appunto al successo. Molti giovani registi cinesi hanno tentato nel corso degli anni di sfidare in un certo senso il modello Xi Jin, rifiutandone il conservatorismo e soprattutto la sua forte difesa del sistema politico, ma il loro lavoro purtroppo non avrà molto successo, almeno non in patria. Grazie Giuliana per la spiegazione. Quindi vi ricordiamo che la rassegna è dal 5 al 9 novembre al Cinema Lumière e sarà una rassegna che prevede 8 dei suoi più grandi classici che saranno proiettati per la prima volta in Occidente in versione integrale e sono restaurati, appunto, sono classici restaurati nel 2014. Niente ragazzi, quindi vi aspettiamo, non perdiamoci questa grande occasione. Tutta la rubrica, Stefano. La rubrica? Sì. No, sono arrivato in ritardo. Che cosa lanciamo per concludere? Per concludere, Giuliana, te cosa ci proponi? Ma non saprei, diciamo una canzone, un altro brano di Fred Wesley, Funk for Your Ass. Che ne pensate? Dai, ci Dai. Sta. Alla prossima. Ciao a tutti. We'll be right back. Thank you.